Mix 24 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia. Letizia Brichetto Moratti, milanese doc, inizia la sua carriera come imprenditrice finanziaria assicurativa, poi è la prima presidente donna della RAI. Dopo 5 anni al Ministero dell'Istruzione e della Ricerca, nel 2006 è sindaco di Milano e ottiene insieme a Prodi l'assegnazione dell'Expo 2015. Nella mia vita ho detto tutto passa, ma non la famiglia e San Patrignano. Nella borsa tiene sempre una moneta portafortuna regalata da suo suocero, imprenditrice, ministro, presidente della RAI, sindaco, oggi anche autrice del libro Milano tra storia, realtà e sogno. Allora, dottoressa Moratti, lei è stata sindaco di Milano per 5 anni. Che sogno ha realizzato in quei 5 anni? Guardi, Minoli, io ne ho realizzati almeno 4 di sogni: per la cultura e il Museo del Novecento, per le famiglie, più aiuti ai bambini e agli anziani nelle loro case, il rilancio internazionale di Milano grazie ad Expo e più verde. Qui a Mix24 lei aveva detto: quando passeggio per Milano però guardo le buche, dico bisognerebbe ricoprirle. Perché lei non l'ha fatto quando era sindaco? Perché allora non si poteva, perché non c'erano tipologie di asfalto che consentivano di posare l'asfalto durante tutto l'anno. Ora si può. E adesso quando passeggia cosa pensa che bisognerebbe fare? Sempre le buche col nuovo asfalto? Certamente le buche col nuovo asfalto, ma anche più verde. Ma quando ha perso le elezioni contro Pisapia ha sofferto molto? Mi è dispiaciuto per i tanti progetti che avevo avviato, le linee metropolitane, il car sharing, il bike sharing. Sì, per questo mi è dispiaciuto. Però cerco sempre di pensare al futuro più che al passato. Ecco, infatti, pensando al futuro, lei ha reagito impegnandosi su nuovi fronti. La finanza sociale. Che cos'è esattamente la finanza sociale? È il contrario della finanza speculativa. È quella finanza che investe nelle aziende ed è quella finanza che gestisce con prudenza i soldi dei risparmiatori. E anche con chiarezza. Certo. Cioè, lei ha detto che bisogna avvicinare la buona finanza alle imprese sociali. Ma c'è una buona finanza? Al certo, di là del sogno? Certo, no, ci sono degli esempi. Per esempio Banca Prossima, che è la banca che finanzia le imprese sociali. Per esempio Extrabanca, che finanzia le rimesse degli immigrati. Banca Esperia, Ubibanca, Banca Carim, che emettono obbligazioni sociali, che vanno a finanziare progetti sociali. Ecco, questa è buona finanza. Ecco, senta, a proposito di buona finanza, la vedova del pensionato che, come ricorderà, si è ucciso per aver visto andare in fumo tutti i suoi risparmi senza nessuna informazione. Io rivoglio i miei soldi, anche il costo di rimetterci. Mi ha detto: va bene, non mi volete da tutto? Mi dà il 70%, ma contento. Non c'era verso. Da quel momento un'ossessione. Ripeteva di continuo: non sono stato in grado di tutelare la mia famiglia. Ha detto: non ce la faccio io a reggere una situazione del genere. E 10 minuti dopo non c'era più. Ecco, le banche da quel momento sono nella tempesta. Perché secondo lei non fanno buona finanza? Non fanno buona finanza perché sono legate, come peraltro purtroppo anche le imprese, al concetto del profitto nel breve periodo. Anche la liquidità che è stata immessa nel sistema bancario, prima negli Stati Uniti e poi in Europa, non è andata a finanziare le imprese o ad aiutare a gestire il risparmio delle famiglie. È andata alle banche, che hanno investito in prodotti ad alto rischio. Quindi l'utopia delle banche, della buona finanza, allora qual è? E come dicevo prima, è gestire prudentemente il risparmio delle famiglie, investire nelle imprese perché possano crescere e essere più trasparenti e avere maggiore chiarezza nel rapporto con i propri clienti. Sì, però insomma sembra che la crisi del 2008 non sia servita a nulla praticamente. Purtroppo è così, perché c'è un problema culturale di fondo. Finché le banche sono gestite dalle stesse persone che le gestivano prima del 2008, finché nelle università la finanza si insegna come la si insegnava prima, finché i commentatori commentano nello stesso modo e finché non esistono degli indicatori che premiano il concetto del lungo periodo rispetto alle speculazioni, certo, nel breve, certo, purtroppo bisogna dire che effettivamente la crisi servita è servita poco. Ecco, torniamo a Milano. Quando lei era sindaco, il suo braccio destro era l'attuale candidato sindaco del centro-sinistra, Giuseppe Sala. Senta cosa mi ha detto della vostra sintonia. Su alcune cose sì, su alcune no. Per esempio, non il mio programma di mettere mani alle partecipate e creare una super holding del comune è stato bloccato dal sindaco di allora. Quindi lei non ha lavorato bene con la Moratti? No, per certi versi sì, ci mancherebbe. Ma guardi, che voto le dà come sindaco? 6,5. 6,5. E a Pisa Pia? 7,5. 7,5. Soddisfatta? Ma, francamente non è che mi interessi così tanto. Allora lei quanto dà Sala come city manager? Guardi, io giudico un manager rispetto al progetto per il quale è stato chiamato. Io ho chiamato Sala per gestire il Comune di Milano. Dopo non troppo tempo lui ha deciso che voleva fare altro. Certo, era una sua ambizione. Lecita. Ma a questo punto un voto appena sufficiente. Ma lo voterà? Il voto è segreto, però io credo che la coalizione che lo sostiene sia molto lontana dal futuro che io immagino per la nostra città. Ma e lei quando l'ha nominato commissario dell'Expo, perché lui lo chiedeva, sapeva che era un uomo di sinistra oppure no? Sapevo che era un uomo ambizioso e che voleva fare altro. E io nella mia vita ho sempre cercato di accontentare le persone con le quali collaboro nelle loro ambizioni. L'ho fatto anche con lui. Senta, Jacques Attali, nella prefazione al suo libro scrive che lei sa meglio di chiunque altro che qualsiasi progetto umano è un'utopia prima di essere una realtà. Vale anche per l'Expo? Sì, più che mai. E qual era la sua utopia dell'Expo che è rimasta utopia? La cooperazione internazionale, aiutare, e in questo momento c'è più bisogno che mai, i paesi in via di sviluppo, e penso soprattutto ai paesi dai quali ci sono flussi migratori importanti verso l'Italia e l'Europa, a formare il proprio capitale umano e sociale. Ecco, ma la realtà dell'Expo di Sala e di Renzi, che cosa ha realizzato poco di questa sua utopia, mi sembra? Ma ha realizzato, sicuramente la parte positiva che ha realizzato è stata quella di far incontrare le aziende italiane con migliaia di aziende di altri paesi, quindi sotto questo punto di vista sicuramente è stata positiva. Ecco, lei nel libro scrive che il contenuto iniziale di Expo, Nutrire il pianeta, energia per la vita, era il titolo, è stato declinato in maniera riduttiva, cioè... Beh, si è parlato troppo di cibo, troppo poco di acqua, di energia, di protezione delle specie, di ambiente, di biodiversità, protezione degli oceani, quindi tutti temi che sono fondamentali per il futuro del pianeta. Ecco, Guido Barilla ha detto: l'Italia ha perso un'occasione importante, l'Expo non doveva essere solo una vetrina per far conoscere il prodotto italiano e ricevere capi di Stato, ma nasceva per far capire il problema dell'alimentazione e del cibo. Allora ha ragione Barilla. Certo, anche perché da qui al 2030 saremo 3 miliardi in più e la necessità di cibo aumenterà del 50%, quindi avremmo potuto utilizzare Expo per studiare delle soluzioni a questa grave emergenza. Ma c'è qualche altro progetto di Expo che non si è fatto e che le sarebbe piaciuto invece vedere realizzato? Sì, le ecosfere che simulavano i climi del mondo, che avrebbero potuto essere un'attrazione turistica straordinaria nel dopo Expo. È permanente, appunto. Certo. Ecco, appunto, il dopo Expo, lei come l'aveva immaginato? Lo avevo immaginato come un'opportunità di turismo che sarebbe dovuta continuare, turismo culturale e turismo ecologico. Ecco, ma la convince il progetto Human Technopole, che è quello che è in campo in questo momento per il dopo Expo? Sì, certo, mi convince. L'IIT è un ottimo istituto, l'avevo fondato io quando ero ministro. Ci sono le università milanesi, questo è importante. Il sito Expo però è grandissimo, quindi ci sarebbe spazio per altro. Resta tanto verde, insomma. Resta tanto inutilizzato per il momento. Senta, a proposito di un altro sogno, le faccio sentire cosa mi ha detto il ministro Martina a proposito della fine che ha fatto la carta di Milano. Sa qual è la fine più bella? Se andiamo insieme in qualche scuola elementare media nel nostro paese, troverà dei cartelloni che raccontano il lavoro educativo che tante scuole stanno facendo. Era questa la carta di Milano che lei aveva immaginato? No, io avevo immaginato impegni precisi e vincolanti. È per questo che non l'ha firmata la Carta di Milano? Non l'ho firmata per questo e non l'ho firmata perché mancava il tema della speculazione finanziaria dei prodotti alimentari e il tema dell'accaparramento delle terre. Senta, Cantone recentemente ha detto che Milano dopo l'Expo è tornata a essere capitale morale d'Italia, è vero? Sì, Cantone ha identificato la vera natura di Milano, che è quella di avere degli anticorpi che sono in grado di far reagire Milano anche quando ci sono situazioni di gravi criticità. Sì, ma con i nuovi scandali legati alla sanità come la mettiamo? Appunto, gli anticorpi. Uno dei capitoli del suo libro si intitola Milano la grande bellezza, ma non era Roma la grande bellezza? Beh, Roma ha una bellezza molto più appariscente, Milano ha una bellezza più segreta. E qual è il segreto? La grande bellezza di Milano dov'è per lei allora? Nelle persone. Ma lei scrive che Milano è una città piena di altruismo, ma non è un altruismo sentimentale, di buon cuore, ma piuttosto un altruismo attivo. Che cosa vuol dire esattamente? Beh, penso a tutte quelle famiglie che sono impegnate nelle fondazioni, tipo Prada per la cultura, Rava per l'aiuto ad Haiti. Penso invece anche a situazioni di altruismo di strada, tipo quella dei City Angels. Senta, ma Sala potrebbe portare avanti questa idea di Milano altruista di cui parla lei? Non nel senso in cui parlo io, perché la coalizione che lo sostiene è una coalizione assistenzialista e statalista, quindi non è l'altruismo partecipativo al quale penso io. Quindi la Milano altruista di cui parla lei è più facile che la realizzi Parisi di Sala? Assolutamente sì. Senta, in ogni caso in politica sempre di più il tempo di tecnici invece che di politici. In fondo a Milano si sfidano, se lo vogliamo vedere da un altro punto di vista, si sfidano tre manager che hanno molte cose in comune: Sala, Passera, Parisi. C'è una crisi di legittimazione della politica? Ma c'è una valorizzazione della società civile e questo credo che sia positivo. E c'è certamente anche una sfiducia nella politica in generale e credo che questo purtroppo sia negativo. Senta, ma il centrodestra però è in una grande crisi, appunto, per l'incapacità addirittura di scegliere i propri leader. E la fine di Berlusconi? A Milano il centrodestra è stato capace di ricompattarsi su un nome di prestigio come quello di Parisi. Ma lei vede una possibilità per il centrodestra di ricompattarsi a livello nazionale? A Milano lo ha fatto, quindi Milano può sempre essere un punto di partenza. Ma è stato un errore rompere il patto del Nazareno, secondo lei? Guardi, quando ci penso, francamente, non lo so, non glielo saprei dire. Lei 2 anni fa però mi ha detto che Renzi è simpatico, che è un grande comunicatore, un innovatore. Lo pensa sempre? Sì, sicuramente è un buon comunicatore. E alla comunicazione bisogna anche affiancare delle doti, credo in questo momento delicato, soprattutto in Europa, per l'Italia, delle doti di diplomazia, e credo che forse in questo Renzi sta mostrando qualche limite. Ma nell'insieme le piace? Anche dal punto di vista dell'innovazione penso che in quest'ultimo anno abbia un pochino perso lo slancio riformatore che aveva mostrato soprattutto nel primo. Senta, dottoressa Moratti, Renzi dice di no, ma i segnali che ci fanno pensare a una prossima guerra in Libia purtroppo sono moltissimi. Moriremo per Tripoli? Il governo libico ci chiede di inviare ingegneri, di inviare medici. Credo che questa sia la strada. Noi, italiani ed europei, dobbiamo investire perché in quei paesi si formi capitale umano e sociale in grado di far fronte alle emergenze. Quindi non 5.000 militari. No, non armi, ma ingegneri e medici e chi forma gli ingegneri e i medici. Senta, ma che voto dà oggi a Renzi? Un po' meno di quello che gli avrei dato l'anno scorso, 2 anni fa. Vabbè, non facciamo il numero. Senta, lei ha detto: nella mia vita tutto passa tranne la famiglia e San Patrignano. La famiglia la capisco, ma perché San Patrignano? Ma perché San Patrignano è la mia famiglia, è la mia famiglia allargata, è grande. Senta, ma oggi lei si considera l'erede di Vincenzo Muccioli? Assolutamente no. Gli eredi di Vincenzo Muccioli sono i suoi ragazzi, quelli che lui ha formato, quelli che adesso gestiscono la comunità. Senta, dottoressa Moratti, ma Muccioli che cosa le ha insegnato che le è rimasto? Mi ha insegnato la bontà, l'altruismo, la dedizione agli altri col suo esempio. Spero che queste cose mi siano rimaste. È un esame di coscienza che mi faccio tutti i giorni. Ma chi era Vincenzo Muccioli per lei? Per me era un grandissimo amico e un grande esempio. Senta che cosa ha detto Paolo Villaggio a proposito di Vincenzo Muccioli e di San Patrignano. Muccioli è una specie di grande nave nella quale tutti sono sfuggiti a un naufragio, e c'è un clima a San Patrignano, c'è il clima di una grande nave che è sfuggita a un naufragio, e c'è un rapporto di grande gioia, c'è un gruppo di persone senza rapporto gerarchico, nelle differenze gerarchiche, che è sfuggito alla morte, cioè che hanno guadagnato una grande cosa, la vita. Quindi quello che conta in Muccioli è che è la somma dell'amore di tutte le persone della comunità. Quindi in che misura la comunità è più forte della famiglia? Perché è una sinergia, è la somma di tutto l'amore di cui sono capaci 540 persone che sono sfuggite alla morte. All'epoca dell'intervista erano 540, adesso quante sono? Sono circa 1400, ma San Patrignano è sempre retta da questo amore, da questa dedizione. Era questa l'utopia di Muccioli? Era questa, sicuramente. Grande testimonianza di Villaggio. Straordinaria. Senta, quindi la sua San Patrignano resta quella? È sempre la stessa? Sì, ma non è la mia San Patrignano, è la San Patrignano di tutti coloro che la vivono giorno per giorno e di tutti coloro che dedicano la loro vita a salvare altre vite umane. Ecco, ma intanto, oggi, qual è il tasso di recupero di San Patrignano? Dei tossicodipendenti, naturalmente. Elevatissimo, è sempre oltre il 70%, ma il dato che è ancora più impressionante in questi anni così difficili per l'occupazione, soprattutto l'occupazione giovanile, è che i circa 300 ragazzi che ogni anno escono da San Patrignano, per il 96% escono con un lavoro. Senta, San Patrignano, con un lavoro? Sì, con un lavoro. Perché imparano a fare un mestiere? Perché imparano, perché vanno a scuola, vanno anche all'università e imparano un mestiere. E quindi li aiutiamo quando escono. A reinserirsi. I responsabili di San Patrignano li aiutano a reinserirsi in un lavoro. Senta, San Patrignano è stato un'utopia prima di essere una realtà. Come dice nella prefazione del suo libro Jacques Attali, si può fare quello che è stato fatto a San Patrignano anche a Milano. Mi sembra un'utopia veramente potente, ma insomma parliamo di utopie, quindi come? Ma Milano potrebbe diventare campione dell'agenda ONU 2030, cioè quell'agenda che è stata approvata e che prevede tre pilastri per lo sviluppo sostenibile: lo sviluppo economico, l'inclusione sociale e la tutela dell'ambiente. Questi sono i 17 nuovi obiettivi del millennio. Molte città hanno firmato questi obiettivi. Ecco, io penso che Milano potrebbe candidarsi a essere campione di questa nuova agenda del 2030. Ecco, forse per farlo però c'è un modo solo. L'ha detto Crozza, forse l'ha detto meglio di tutti, parlando di Sala. Tra l'altro lui un po' di esperienza nel comune ce l'ha, perché è stato direttore generale ai tempi di Letizia Moratti. Era il suo braccio destro. E tu, PD, non vuoi farmi sindaco il braccio destro della Moratti? Sarebbe stato meglio proporre direttamente la Moratti. Però, come segnale forte, anche Sala va bene. Beh, Crozza, questo libro, in fondo, il suo libro mi sembra un manifesto d'amore per Milano, ma anche un manifesto politico, mi sbaglio? Io non direi che è un manifesto politico, è sicuramente un manifesto che dà una visione di quella che a mio avviso dovrebbe essere un cambiamento culturale, non solo a Milano tra l'altro, rispetto al modello economico e sociale di tutti i paesi, quindi un modello economico e sociale che si indirizza di più verso la tutela delle future generazioni, che si indirizza verso un'economia che si rigenera. Però queste idee, queste utopie, no? Poi camminano sulle gambe delle persone. Quando dico sì, un atto d'amore per Milano, ma anche un manifesto politico, Crozza dice la sua, io non lo so, ma capisco cosa vuol dire. Insomma, in fondo a questa utopia c'è la politica. Sì, c'è se, il fare. Se si intende una politica del fare, assolutamente sì, ed è la politica che io mi auguro di vedere a Milano, quindi una politica fatta di impegni precisi. E quindi lei 17... si candida a fare cosa? No, io non mi candido a niente, no, vedremo. Darò un contributo se mi verrà chiesto, ma ci sono degli obiettivi precisi: ridurre la povertà, ridurre le differenze di genere tra uomo e donna, dare la possibilità a tutti di avere un'istruzione, creare lavoro dignitoso per tutti. Queste non devono rimanere utopie, è un sogno che si deve realizzare. Vabbè, poi la gente che lo fa, bisogna trovarla, e quindi cerchiamo fra chi scrive questi progetti. Senta, oggi l'8 marzo è la festa della donna. È una festa che ha ancora senso oppure no? Assolutamente sì. Perché? Perché noi viviamo in un periodo storico in cui non abbiamo certamente bisogno di conquiste. Abbiamo bisogno di curare il nostro pianeta, che è profondamente malato. E nella cura, sinceramente, sono le donne che hanno una maggiore... vocazione. Gli uomini conquistano, le donne curano. Adesso abbiamo bisogno di cura e quindi abbiamo bisogno delle donne. Senta, le donne servono anche all'Inter o no, secondo lei? Servono ovunque. Va bene, grazie. 800 24 00 24 numero verde, 349 238 6666 l'SMS. Pubblicità. Mix 24. Beh, Mario, c'è un titolo, tu? Sì, La serietà di Milano. La serietà di Milano, sì. Tu, Pietrangelo? Se non suona blasfemo, mi ha molto colpito la riflessione su San Patrignano, la capacità di recupero. Spostandola in politica, farei la capacità di recupero del centrodestra è pari a zero. Cioè il titolo qual è? Zero. Moratti, due punti. Centrodestra zero. Centrodestra zero. O irrecuperabile. Irrecuperabile, ma va bene. Allora andiamo con la tua canzone, Pietrangelo. E oggi a chi la dedichiamo? Com'è? E oggi è successo che era ancora buio e ho sentito gli uccelli che cantavano illusi che fosse primavera. Avevano nel pigolio la pioggia chiusa in bottiglia, poi l'acciaio nelle piume, il cuore loro era fatto il respiro mai ricordo di una brezza d'estate. E poi arrivate il sole e questi uccelli in becco portavano in ciascuno una freccia spezzata. Ha chiamato Alce Nero, ha voluto questa canzone e la dedica a tutti i fratelli. Count the beads of sweat that cover me. Ai nativi. Ma chi è Alce Nero? Alce Nero. Non hai mai letto quel libro meraviglioso? Lo segnalo e lo consiglio ai nostri ascoltatori. Alce Nero parla, edizioni Adelphi. Un libro fondamentale. Ma chi è l'autore? Abbi pazienza. Lui, me lo Alcenero. Un grande guerriero. Ah, ma nativo. Proprio lui. Sì, no, sì, io credevo fosse un nom de plume, una cosa più... Vabbè, lui. Il lui. Grande capo. Senti, invece il titolo lo fa un titolo anche Michele D'Alecco. Dice, oh, e che dice? Letizia come Madre Teresa. Mamma mia. Forse, un po' esagerato. Appunto, per questo lo leggevo. Senti. Andiamo con la tua bolla, Mario. Sì. Decisions as I go to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm wishing no. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Decisions as I go. Senti, mo passa, Fermo lì, minori. Non mi muovo. Fermo che parte. Eccola qua. Allora, Reality, questi sono Lost Frequencies, molto carina, molto bella, un brano fresco. La Guerrera mi ha detto: ma è una roba da ventenni. E io gli ho detto: beh, devo apparire un po' più giovane, perché se no, guarda, sai, siamo tutti rottamati. No, no, non è vero, no, non è vero. Ma lui si crede più giovane di quello che invece non è. Ci sarà allora, il recupero, lui, stai tranquillo. Con la L maiuscola. E di lui io vi voglio parlare. Perché, parliamo di lui. Sì, perché insomma c'è stato il vertice europeo ieri, e sì, la cosa veramente divertente è stata che noi abbiamo... I turchi hanno chiesto altri soldi. Giustamente. Loro hanno chiesto altri soldi perché fanno i turchi, cose turche. Loro aprono il mercatino, no? E quindi vogliono altri 3 miliardi, avevano già fatto un accordo in novembre per altri 3, ma la cosa divertente è stata la scusa con la quale il governo italiano, il grimaldello, chiamiamolo così, con la quale il governo italiano mette il suo veto, e cioè la grande preoccupazione del governo italiano, quindi del premier Renzi, per la libertà di stampa in Turchia. Ah, beh, importantissimo. E io ho detto, ma è una cosa grossissima, io sono veramente contento. Poi ho detto, noi in effetti possiamo dare grandi esempi a tutti su questo. In fondo si stanno fondendo solo un paio di gruppi editoriali, Repubblica e Stampa. Vabbè, così sono più grossi. Certo, però diventano uno dalle mie parti. Quindi pensiero unico. Il glorioso Corriere della Sera ha perso il suo storico azionista, la famiglia Agnelli, è in pericolo, c'è un mucchio di debiti purtroppo fatti in quella gestione. Tra l'altro, le principali agenzie del paese, ANSA e AGI, secondo i rumors, si stanno fondendo anch'esse, quindi meno uno fa sempre uno, quindi un altro interlocutore in meno. I piccoli giornali boccheggiano. La RAI si avvia per la prima volta. Leggo sempre le cose sui giornali, che tra l'altro insomma sono prodighi di notizie renziane in questo caso, che insomma c'è un pensiero unico in corso. Non hanno ancora fatto niente, non si sa qual è il palinsesto. Ho visto i nomi. Di cosa? Ho visto i nomi dei candidati, alle direzioni dei TG. Ma quei nomi che sono candidati sui giornali non arrivano mai in fondo. Quando mai. Io dico, commento i progetti. Quando vuoi bruciare un candidato, fai uscire il suo nome. Commento i progetti. Parlo per esperienza. I know very well. Ma commento i progetti. Se i progetti sono questi, abbiamo la RAI che sarà per la prima volta nella sua storia con 3 TG che la pensano uguali. Ma, diciamo così. Tutti inventi un futuro che non c'è. Speriamo. A meno che non si consideri Orfeo uno di centrodestra, ma non mi pare. Il più renziano di tutti in questo momento. Eretto con i voti del centrodestra, ovviamente. Vabbè, però noi siamo... Io sto la ai libertà fatti. Di stampa sto in Italia ai fa- sto ai fatti la sto libertà ai fatti. Di Staglia nella classifica mondiale è in alto e lì voglio arrivare, grande minori, fammi la domanda, siamo in alto? Dove siamo? 73esimo posto e su 1000 insomma questi miei pensierini così io li ho fatti perché sono anch'io molto preoccupato per la libertà di stampa in Turchia, ma facendo il giornalista, finché ce lo fanno fare in Italia, mi preoccuperei se fossi il premier Renzi. Anche di questo 800 24 00 24, numero verde. Buttafuoco ha chiesto Butta di parlare. Fuoco, parla prima dell'SMS. Dica. No, domanda Mario. Dimmi ci stanno Pietrangelo. Facendo fare i giornalisti? No, ma stai scherzando. Addirittura mettono i veti sulle ospitate in TV. No, quello 3, non 4, lo voglio. No, basta, dai. 349 238 6666. Mauro Felicori, bolognese, direttore della Reggia di Caserta dallo scorso agosto. Nei giorni scorsi si è parlato molto di lui per una lettera che comincia così. A 5 mesi dall'insediamento del nuovo direttore della Reggia di Caserta, spiace rilevare che... E la lettera è stata spedita dai sindacati della Reggia per denunciare al ministro Franceschini che il direttore lavora troppo, sta in ufficio anche di sera e non torna a casa nemmeno nel weekend. Ha una vita infelice la sua a casa, allora è così? Ma onestamente qualche sacrificio familiare è nelle cose, a fronte del fatto che sto vivendo un'esperienza meravigliosa. Perché la Reggia è un posto di rilievo mondiale, la rinascita della Reggia può essere un esempio per un discorso molto importante per l'Italia, ma soprattutto per il Mezzogiorno, cioè esatto. I beni culturali come locomotiva dello sviluppo territoriale. Assolutamente. Secondo i sindacati, invece, il suo comportamento mette a rischio l'intera struttura, quella parte della Reggia non si può blindare col rischio che qualche malintenzionato, leggo sempre la lettera, possa penetrare, magari prenderlo in ostaggio. Sono pazzi, insomma. Diciamo che è una polemica senza basi, nel senso che la Reggia è vigilata 7 giorni su 7 e 24 ore su 24, dunque... Quindi non ha senso. Io mi sento protettissimo, neanche un minuto di straordinario viene pagato per permettermi di lavorare, anche se io come capo di un'azienda di 250 dipendenti potrei anche avere il diritto che qualcuno facesse lo straordinario per seguire il mio lavoro, ma non faccio neanche quello. Neanche quello. Non voglio disturbare, faccio da solo. Senta, comunque nel mirino dei sindacalisti, oltre agli orari da stacanovista, ci sono anche delle piccole rivoluzioni che lei ha portato a Caserta. Quali rivoluzioni ha portato che hanno disturbato così tanto i sindacati? Ma guardi, io sono lì da 5 mesi e mi dolgo di aver fatto ancora pochissimo rispetto a alle tante cose da fare. Lei sa che in una pubblica amministrazione l'unità di misura è almeno un anno per poter giudicare come minimo, certo. Però certamente può aver disturbato forse per il fatto che io non consulti i sindacati tutte le mattine su quello che devo fare nella giornata, e penso di aver fatto capire che con un atteggiamento moderato, perché io non sono un giacobino, non penso che l'uomo da solo possa cambiare il mondo, e penso che è solo se tutti i 250 che siamo facciamo qualcosa di meglio ogni giorno le cose cambiano. Però ho fatto capire che col mio modo moderato voglio cambiare le cose. Ecco, ma qual è la cosa che ha fatto di cui va più fiero finora? Beh, la cosa di cui vado più fiero è che abbiamo appena liberato i locali dell'aeronautica e della scuola di amministrazione che occupavano metà del piano nobile, e il 1° giugno, senza tenerli tanto tempo vuoti, inauguriamo la mostra Terremotus, che penso che questo sarà l'evento dell'anno in Italia per l'arte contemporanea. È una collezione di 76 opere dei più grandi artisti dell'Occidente, intendo Andy Warhol, Kate Haring, Kiefer, Beuys, Boetti, Kunellis, tutti i migliori dell'Occidente. Lucio Amedio, grandissimo gallerista napoletano, chiese a tutti gli artisti migliori di dedicare un'opera al terremoto di Irpinia dell'80. Ecco. E loro risposero non dando un quadrettino, ma dedicando un'opera, spesso di proporzioni colossali. Questa collezione praticamente è stata dimenticata e invece lei la rivaluta. E noi il primo giugno la rimettiamo in pista. E vedrà che con quella mostra farà il giro del mondo. E invece quello che non riuscirà a cambiare mai, che cos'è? Never say never, no. Diciamo che l'innovazione è lo spirito base di sì, ma avrà capito fin dove può andare. Sì, ma io ho un contratto di 4 anni. Ah, va bene. Io penso di porre le premesse, altri penso che il grosso dei piaceri lo proveranno quelli che verranno. La pubblica amministrazione cambia lentamente. Dalla Reggia di Caserta però sta emergendo anche un caso di affittopoli, ville nel parco assegnate a ex dipendenti per pochi euro al mese. Pare addirittura che gli affittuari avrebbero a disposizione i giardini per le feste private. È vero? È tutto vero? Ma è una patologia, può essere capitato anche questo. Da quando sono io, tutte queste, diciamo, i fenomeni di cui si è sempre parlato non ci sono più. Neanche affittopoli? No, affittopoli è una patologia che abbiamo ereditato dal passato. Sono tutti contratti legali, peraltro. Sono vantaggi che venivano dati ai dipendenti, poi sono rimasti nel tempo. Comunque sono stati tutti sfrattati, sono in corso l'esecuzione degli sfratti. Quindi abbiamo ereditato una patologia, ma la stiamo curando. Insomma, simpatico questo direttore della Reggia di Caserta. Salamino! Più che l'Iliade, la Boschiade, e l'incipit non può che essere cantami o diva l'ira della furiosa Boschi. No. Insomma, sì, altro che volto gentile del regime, Maria Elena Boschi, ministro delle riforme, morde, azzanna e castiga. Al giglio magico, infatti, sbucano le spine. Ma non è suo papà? No, non è questa. Ma sempre la stessa cosa. No, scappò. Volevo dire che al giglio magico sbucano le spine. E interessante assai oggi è la notizia riportata dal Fatto Quotidiano. Cioè, Boschi licenzia la vigilessa di Renzi. Ve la ricordate? Fedelissima di Matteo Renzi, Antonella Manzione, già capo dei vigili metropolitani di Firenze, lei che possiede 300 gufi, uno dei quali Quel gufo con gli occhiali. Ecco, no, ma non questa, è quella. Questa è la versione. Cioè, questa è la versione. Quella secondo Erdogan. Ah, va bene, va bene, va bene. Questa possiamo mettere. Il modello, quello Erdogan. Questo si può. Questo va bene. Questo modello Erdogan. L'altra ve la ricordate com'era? No, com'era? Quell'altra. Quale? Ma chi? No, aspetta, no, no. Dai. No, era per promemoria. Allora, no, torniamo. Allora ce l'hai con lei. No, con chi? Con la mansione, poveretta. Già è stata. Insomma, davvero? Allora, sì, sì. No, allora, la mansione. Cosa è successo? Ve lo ricordate? Già fu chiamata, non senza polemiche, ha un ruolo assai delicato. Forse Mario è l'unico che lo sa dire questa sigla. È Dagl. Così si dice, così Dagl. Più o meno. Dagl. Sì. Dagl. Dagl. Cioè il Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi di Palazzo Chigi. Quelli che sfornano i decreti. Sì. Perfetto. Sta povera vigile vede appannare la propria ascesa perché pare sia troppo lenta a tradurre in testi di legge l'infinità di riforme, progetti, decreti, decretucci e decretini prodotti dal renzismo. Tutti i dirigenti del ministro Boschi le remano contro. Sì, sì, come no, è lo stesso Renzi su cui Boschi comunque riversa i malumori, no? Così, insomma, lui lamenta la lentezza con cui la perfezionista e la pignola Manzione, che oltretutto è sorella di un sottosegretario, un magistrato Domenico, assolve il proprio compito. E dunque ecco chi arriva. Ecco, le sentite arrivare al giglio magico. Sono spuntate le spine, per non dire degli artigli. Nel frattempo che Renzi va da Barbara D'Urso, alle rogne vere deve pensarci lei, Maria Elena Boschi. Il famoso punto di forza di Renzi, ve lo ricordate, no? Il tormentone, non c'è alternativa a Matteo, non c'è alternativa a Matteo, non c'è alternativa a Matteo, invece ha trovato il punto di rottura, ed è il boschismo. Il giglio ha fatto le spine, anzi, gli artigli, perché lei azzanna, artiglia, castiga, e una discussione comunque l'hanno avuta, lei e Matteo Renzi. E io mi sono permesso di registrarla e ve la faccio sentire. Stai zitta sì o no? E no, e no, e no. Stai zitta sì o no? E no, e no, e no. Ti chiudo dentro un sacco, legato a piedi e mani, e in bocche pesce cani, ti scaraventerò. Io ammazzo i pesce cani, torno a galla e parlerò. Stai zitta sì o no? E no, e no, e no. Almeno per un po'. E no, e no, povero Renzi. No, no, guarda, io adesso dovevo far fare una bolla a Mario, ma Mario è andato via. È andato via perché Mario ha scritto l'apoteosi della Boschi, è un boschista puro. E quindi tu, insomma, boschiano, come si dice? Boschiano, boschista? Non lo so, però Maria Elena con quei boccoli... Vabbè, insomma, adesso tu devi rimediare. Come la medusa, tu la vedi. Mario al boschetto, boschista perfetto. Il boschetto. Mario al boschetto. In via del boschetto a Roma. Bolla, bolla. Bolla. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. And I know when the hotline bling. Beh, questo è Drake, bello, è una telefonatina, senti, sì. I know when the hotline bling. Sai, no, c'era la canzone di Adele, Hello, e a un certo punto questa canzone ce l'avevano tutti, e a un certo punto hanno inserito dentro la canzone dei Buontemponi una battuta e diceva Hello, non c'ho la linea, è finito il credito. E vabbè. Allora? E allora invece mi voglio occupare di Brexit, cioè di una cosa seria che ovviamente nel dibattito italiano è poco considerato. Mark Carney, il governatore della Banca d'Inghilterra, sta preparando le contromisure per il voto del 23 giugno. Ci sarà un apporto straordinario di liquidità alle banche prima del referendum e dopo il referendum per evitare shock economici, soprattutto tenere in piedi un po' la sterlina nel caso dovesse vincere l'exit. Quindi io consiglio a tutti quelli che hanno voglia di capire che cosa succede nell'economia di guardare a questo evento con grande attenzione. Molta attenzione. Forse fare un'ultima segnalazione velocissimo perché dobbiamo andare in pubblicità. Sì, controllatevi la birretta che si berranno oggi a Venezia, ore 17, conferenza stampa alle 19, Hollande e Renzi. Dalle loro facce si capirà come sta andando il vertice europeo e soprattutto che cosa faremo in Libia. Anzi, 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, sms pubblici. Mix 24, canzoniere. Ho prenotato per noi due una stanza nella Casa della Luna. Gli alberghi del mondo non mi soddisfano più. L'albergo dove mi piacerebbe alloggiare è la Luna. Ma lì, amore mio, non accettano solitudine. Ci vieni con me, o mia Luna, sulla Luna? E da ieri aspetta Sara, perché l'avevamo già letto ieri, dalla provincia di Roma. No, di Padova, di Padova. Provincia di Padova. Sara? Buongiorno. Buongiorno. Allora? Allora, sa rispondere? Vuole la risposta al canzoniere, vuole sapere chi sono, cosa? Tutto, voglio sapere tutto, però la risposta al canzoniere prima. Allora, la risposta al canzoniere è che è una bellissima poesia di Nizar Kabbani. Giusto! Si intitola Ho già prenotato per noi due. E poi? Se questo è il titolo, perché ho dei dubbi. Basta, poi sono Sara e sono ovviamente la sorella Luna di Alcenero. Ah beh, fantastico. No, parliamo, la sorella di Alcenero, qui parlano fra di loro, va bene, vado, va bene, adesso, adesso col professor Roberto Bernabei commentiamo le più importanti notizie di medicina apparse sulle riviste top del mondo. Medicina, le frontiere della ricerca. JAMA Internal Medicine, gennaio 2016. Supporto nutrizionale in ospedale. Come sapete, in ospedale si mangia male mediamente, certamente non si mangia come a casa. Ma il problema è che l'anziano che si ricovera in ospedale, ma mica solo lui, tutti quelli che si ricoverano in ospedale, non solo per la scarsa qualità del cibo, ma in generale perché c'è la malattia, perché non c'è nessuno che ti assiste nel darti da mangiare, rischiano la malnutrizione. Quando poi non c'hai una serie di malattie che condizionano già un'entrata in ospedale con già una malnutrizione cronica. E allora questo studio è andato a vedere nel mondo reale cosa succede e si è confermato che l'ospedale malnutrisce, nel senso che chi entra in ospedale peggiora i parametri nutrizionali di gran lunga. Allora, se da una parte ci sta bene quello che succede, lo vedo ancora nel nostro paese, è abbastanza diffuso che i familiari portano qualche alimento di quelli che sanno che piacciono al paziente dentro l'ospedale, quindi ben venga questa soluzione italica che negli altri paesi è molto meno sperimentata, è evidente che bisogna cercare di tamponare con dei supplementi nutrizionali questa malnutrizione. E si è visto che, se fatto così, quello che dimostra l'articolo, diminuisce la riospedalizzazione, spesso causata da quella fragilità che la malnutrizione creata ti ha determinato. E per finire, Gloria Guerrera cosa ci presenta? Oggi una canzone d'altri tempi, gentile, per ricordare alle donne che sono una favola splendida. Nicola Rigliano, Donna. Donna, tutto si fa per te, tutto pur di piacere a te, tutto per un tuo bacio, per un sì, per un no, per te, perché sei donna, gioia di vivere, donna, favola splendida, sei tu, solo tu, quel desiderio che l'uomo chiama.